GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buona domenica da Daniele Lettig e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, GR, che in primo piano la cerimonia solenne alla Risiera di San Sabba a Trieste per la commemorazione delle vittime della Shoah e poi il ricordo della tragedia di Mostar a 30 anni dalla morte dei nostri colleghi Marco Lucchetta, Sasha Ota e Dario D'Angelo. Poi la pagina dedicata allo sport con la sconfitta dell'Udinese. Questo pomeriggio scendono in campo la Triestina e sul parquet tutte e tre le regionali di basket. È in corso alla Risiera di San Sabba a Trieste, unico campo di concentramento nazista in Italia, la cerimonia di commemorazione del giorno della memoria, presenti autorità civili e religiose delle diverse confessioni. In molti hanno detto che non è un giorno della memoria come un altro, quello che si celebra oggi, la Risiera di San Sabba, dopo quanto accaduto il 7 ottobre in Israele, il singolo giorno in cui sono stati uccisi più ebrei dopo l'Olocausto. Proprio a quella data ha fatto riferimento nel suo discorso inaugurale il sindaco Roberto Di Piazza. L'umanità cosa ha imparato da tutto questo? Purtroppo viene da dire nulla, guardando quello che è accaduto lo scorso 7 ottobre e che sta accadendo nel mondo, ha detto Di Piazza. Le sue parole davanti alle corone di fiori depositate dove sorgeva il forno crematorio del campo nazista, a seguire i discorsi e le preghiere dei rappresentanti religiosi, emozionante come sempre il canto del rabbino Alexandre Meloni che ha ricordato l'Olocausto. Mai più si ripetono genocidi, mai più antisemitismo, mai più odio razziale, mai più guerre, ha invocato il vescovo di Trieste, Enrico Trevisi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Cerimonia questa mattina anche a Gorizia, nel piazzale Martiri per la Libertà, davanti alla stazione ferroviaria. Anche il capoluogo isontino ha pagato un altro tributo con la deportazione il 23 novembre del 1943 di 73 ebrei. È questo il pensiero del sindaco Ziberna, che ha annunciato che domani, lunedì, in Consiglio Comunale è all'ordine del giorno un'articolata mozione contro l'antisemitismo sottoscritta da tutti i gruppi consiliari di maggioranza. Era il 28 gennaio del 1994 quando i nostri colleghi Marco Lucchetta, l'operatore Dario D'Angelo e il tecnico di ripresa Alessandro Sasha Ota, inviati in missione per il TG1, morirono uccisi da una granata mentre testimoniavano quanto stava accadendo in uno dei focolai più pericolosi del conflitto dei Balcani, Mostar. La fondazione a loro dedicata li ricorda con il premio sulla rotta balcanica e con un incontro al Teatro Miela alle 17 sulla professione dell'inviato per comprendere come sia cambiata in questi 30 anni e quali strumenti abbiano a disposizione i cronisti che operano nelle zone calde. Ma sentiamo un ricordo di quel drammatico giorno. Pomeriggio di 30 anni fa, io ero di turno in redazione e ricevetti la telefonata che annunciava in maniera drammatica quello che era avvenuto a Mostar. E mi dissero: qui è successo un fatto gravissimo, sono morti tutti. Si trattava di Marco Lucchetta, Alessandro Sasha Ota e Dario D'Angelo, inviati della RAI del Friuli Venezia Giulia a Mostar. Sono trascorsi 30 anni da quando i nostri tre colleghi furono investiti da un'esplosione nel cortile di un'abitazione mentre stavano effettuando riprese dei bambini di Mostar Est, la zona della città abitata dai bosniaci musulmani sotto assedio da parte delle milizie croate. Il piccolo Zlatko, che era assieme a loro, si salvò, ma per i tre inviati della RAI di Trieste, tra i primissimi operatori italiani delle informazioni uccisi in zone di guerra, non ci fu più nulla da fare. Sono caduti, come stanno cadendo in tutto il mondo ancora, operatori dell'informazione, perché i testimoni in certi teatri, in certi momenti, sono i primi a dare fastidio. Sotto la guida di Fulvio Molinari, la redazione del Friuli Venezia Giulia aveva assunto il ruolo di osservatorio dell'Est per tutta l'informazione RAI, un ruolo diventato cruciale con il conflitto nelle repubbliche della Jugoslavia, dapprima Slovenia e poi Croazia e Bosnia-Erzegovina. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel servizio abbiamo sentito la testimonianza di Maurizio Calligaris, allora vice caporedattore della nostra redazione. Una notizia di cronaca: sono in corso dalle 7.40 le operazioni di spegnimento di un incendio divampato in una casa disabitata a Porcia. Sul posto i vigili del fuoco con una squadra supportata dall'autoscala e dall'autobotte. Le ricerche all'interno hanno escluso la presenza di persone, mentre sono state portate fuori alcune bombole di gas prima che venissero coinvolte dalle fiamme. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo, che non ha coinvolto persone. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste 6 gradi e 5 decimi, a Udine, Gorizia 10, a Pordenone 8 gradi, a Tolmezzo 5 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 4 e 5, a Forni di Sopra 4, a Tarvisio 1 grado e 5 decimi, a Sappada meno 1 grado e 5, sul Monte Lussari 2 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 2 gradi, a Lignano 7 gradi, a Grado 5 e 5. Le previsioni per oggi pomeriggio su tutta la regione: cielo sereno, zero termico in risalita fino a 2500 metri circa in serata con inversioni nei bassi strati. Domani cielo sereno, zero termico intorno a 2600 metri con inversioni nei bassi strati. Sulla pianura sarà possibile la presenza di foschie o nebbie nelle ore notturne, specialmente sulla bassa pianura e la costa occidentale verso il Veneto. Verrà pubblicato postumo il libro scritto da Alessandro Talotti, Il saltatore in alto morto quasi 3 anni fa, un romanzo scritto poco prima di morire anche per combattere la malattia che lo avrebbe stroncato a soli 40 anni. Un uomo, un atleta che non ha mai smesso e non smette tuttora di sorprendere, Alessandro Talotti. L'ultimo regalo, il saltatore in alto friulano, strappato alla vita nel maggio di ormai quasi 3 anni fa, a 40 anni, a causa di un male che non gli ha lasciato scampo, l'ha fatto in un libro presentato in regione che uscirà tra giugno e luglio in occasione delle Olimpiadi. Scritto tra il 2020 e il 2021, proprio quando aveva scoperto che sarebbe diventato padre per la prima volta, e aveva cominciato anche la dura battaglia verso il male. La moglie Silvia Stabili. Ho voluto appunto finirlo e farlo uscire appunto proprio per nell'anno in cui ci sono le Olimpiadi, perché parla appunto di Parigi 2024, quindi era l'anno giusto. E per appunto dare a tutti quelli che l'hanno sempre seguito un ultimo suo regalo. Massimo Di Giorgio, presidente FIDAL del Friuli Venezia Giulia. Alessandro è stato un po' il mio figlio, un po' il proseguio di quello che è stata la tradizione del salto in alto del Friuli Venezia Giulia, soprattutto della provincia di Udine. Era una persona eccezionale, con una visione e con una capacità di affascinare con la sua empatia veramente il mondo intero. Durante l'incontro è stata anche annunciata l'edizione 2024 di Udine Jump, il prossimo 6 febbraio. Al Pala Indoor Ovidio Bernes, Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Calcio, terza sconfitta nelle ultime 4 gare per l'Udinese ieri sul campo dell'Atalanta. 2-0 il risultato finale maturato già nel primo tempo, con i bianconeri che si sono spenti dopo il raddoppio dei bergamaschi. Non è accettabile il secondo gol. Il secondo gol per noi non è accettabile. Gabriele Cioffi, dopo la sconfitta con l'Atalanta, parla dei gol che fanno più male, quelli presi per disattenzione, che rendono il conto pesante. 24 reti subite nelle ultime 13 partite, 1,84 la media, troppo per una squadra che deve salvarsi. La dea di mister Gasperini ha orizzonti europei, ma l'Udinese le dà una mano sbagliando 2 occasioni per il pareggio dopo il primo gol di Miranchuk. E Bosele e Samarzic sono i protagonisti secondari dei rimpianti del tecnico dei friulani. Che prendiamo gol dall'Atalanta ci può stare, e quello non ci sta è gol a 30 secondi alla fine su un fallo laterale dove c'è stata una dormita colossale, una passività, una fragilità che noi non abbiamo. Quindi questo ci ha un po' ammazzato. La ricerca dell'equilibrio suggerisce a Cioffi i cambi nella ripresa di Samarzic e Toven, che non la prende bene. Sostituzioni che non alimentano una reazione convinta, e rimane della trasferta di Bergamo il ricordo di una delle gare meno convincenti di Perez, che martedì dovrebbe effettuare le visite mediche per il passaggio al Napoli. 16 milioni di euro più bonus l'affare per l'Udinese, che sabato contro il Monza, a porte chiuse, inizierà il suo miniciclo di scontri salvezza. Se si esclude la Juventus in trasferta il 12 febbraio, in calendario ci sono poi Cagliari in casa, Genoa a Marassi e Salernitana al Friuli. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per la Serie C scenderà in campo alle 14 a Fontanafredda la Triestina, impegnata nella 23esima giornata contro la Pergolettese, prima di 2 importanti sfide interne consecutive, che arriva dopo la vittoria esterna arrivata 8 giorni fa a Vercelli. Una sfida da non sottovalutare, quella con i Lombardi, che all'andata si imposero per 2-1. Gli alabardati, tra i pali, saranno ancora privi di Matosevic, alle prese con i postumi dell'influenza, mentre per il resto mister Tesser tornerà ad avere una rosa al completo. Nel basket, in scena la 21esima e penultima giornata della stagione regolare della Serie A2. Le tre squadre regionali scenderanno in campo alle 18. Udine giocherà in casa contro Forlì in una sfida che vale il secondo posto in classifica. Match difficile invece per Cividale in trasferta sul parquet della Fortitudo a Bologna, prima in graduatoria. Trieste, infine, affronterà in casa al Pala Rubini la Riviera Banca Basket Rimini. Ed è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, per la parte tecnica in regia Mauro Ciccarelli e Federico Comar. A voi tutti, buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.